Tamar. Lo chiamano, mi rifiuto, mi sono rifiutato. Quando avresti voglia di non esserci mai stato, potessi essere io quel bimbo mai nato. Esili i ricordi che tempo ha cancellato. Scateno il panico nel tuo mondo perfetto, non compatibile in piena crisi di rigetto. Cosa trasmetto? Ciò che serve non mi aggrada. Prospettive pacca al peso di una tonnellata. Blocco rapporti, appiccicosi come carta moschicida. Personaggi fastidiosi come insetti flow, veleno pesticida. Ho l'odio in ogni rima, non muore sangeriga, manico ti vuoi in vena per la vita. A mio agio nel disagio, io damn. Sul muro 98, chi ricorda questa tag? Fuck the bomb, come crico devastava. Costante allucinogeno che imbratta la tua strada. Qualcosa nel cerchio non quadra, la scena è inquinata. Serve una spezzata, l'aria nuova rinnovata. Fascismo è broda, fake is a moga. Qualcosa nel cerchio non quadra, la scena è inquinata. Serve una spezzata, l'aria nuova rinnovata. Fascismo è broda, fake is a moga. Divariti come deserti inerti, tentativi di riaverti, visci la vita tra le dita come serpi, occhi incerti a invocarti. Aria nuova, aria nuova. Dove son finiti intenti e sentimenti, forse in menti devastate dagli eventi, più che tormenti, anni di pentimenti, troppo lenti, troppo poco coscienti, la senti? È l'ansia, il furore che percuote gli organi interni, che crea ripensamenti e risentimenti, a vigiligenti, davanti a schermi onnipresenti, alle morti per cancro dei parenti, ai presentimenti. È un futuro fatto di giovani assenti, nati già perdenti e inappetenti per le emozioni, se non differenti da crisi di nervi, ormoni, malessere, situazioni solite, tessere che vanno a formare il puzzle della frustrazione. Quando un granello di coscienza si tramuta in ansia, e questa è la tua condizione. Qualcosa nel cerchio non quadra, la scena è inquinata. Serve una spezzata, l'aria nuova rinnovata. Fascismo è broda, fake is a moga. Qualcosa nel cerchio non quadra, la scena è inquinata. Serve una spezzata, l'aria nuova rinnovata. Fascismo è broda, fake is a moga. Carrugi uniti, mixtape. Sam Sfaso.